In America le donne soldato potranno combattere in prima linea. Auguri, ma c'è ben poco da festeggiare. Nel farci del male abbiamo raggiunto la parità.